qui tutto scorre, tu lo sai, e passa e cambia e capirai, e tu sei sempre lì ed io che cerco di arrivare a te, e proverai quel brivido che è complice della tua età, un'anima divisa in due con parte irascibile. Ma intanto dico pantarei, poi dormo e sogno pantarei, e quando sogno sogno solo lei. Non so se te l'ho detto mai, che tutto scorre pantarei, ma io spiegarlo non saprei, altrimenti che filosofo sarei. Ti porto un po' di amore che trascende e si alza l'essere, un'anima divisa in due tra essere gnoseologia. Ma dico ancora pantarei, poi dormo e sogno pantarei, e quando sogno sogno solo lei. Questo aforisma dentro me mi spinge un po' a trascendere, e tu che sei ancora lì, chissà che penserai di me. Se provo amore verso te, vuol dire che io cerco te, se amore è desiderio poi qualcosa nascerà tra noi. Ma vivo e dico pantarei, poi dormo e sogno pantarei, e quando sogno sogno solo lei. Oh, pantarei, ma vivo e dico pantarei, poi dormo e sogno pantarei, e quando sogno sogno solo lei. Amore mio, ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo.